effetto. Qua germo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di capire in passato solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare. Non esiste antidoto e la morte mentale. Opponi resistenza, non farti plagiare. Se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosita incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male. Agire! E allora, 1359 in modulazione di frequenza in onde medie, siete su Radio Wombat e questo è lo spazio della stampa rassegnata. Vogliamo oggi dedicare un minuto di attenzione ad una vicenda di cui abbiamo già parlato, della vicenda dei vaccini, soprattutto della, diciamo, dell'esclusione che l'inadempimento e l'inadempienza rispetto all'obbligo vaccinale imposto dalla legge Lorenzin ha costretto le famiglie e i bambini. Oggi ne vogliamo parlare con una voce competente, chiedendo cosa sta succedendo nelle scuole di Firenze, della Toscana, d'Italia, ma ovviamente soprattutto delle scuole di Firenze, ad una avvocatessa, Chiara Mancini, che sta seguendo da tempo e sostenendo le famiglie che in questi lunghi mesi stanno tentando di non far cacciare, espellere i propri figli dalle scuole e dagli istituti scolastici. Quindi lasciamo a lei la parola perché ci dia un aggiornamento in questi mesi di avvio, in questo mese di avvio dell'inizio scolastico, che è stato caratterizzato anche da una sorta di doppia beffa, proprio perché, come chi ha seguito più da vicino le vicende o comunque gli osservatori un po' più attenti e meno distratti si ricorderanno, c'erano state delle dichiarazioni politiche, in qualche modo anche spot elettorali, come sempre accade, ma prese di posizione che sembravano far prefigurare la possibilità che quantomeno venisse, se non completamente rimosso, l'obbligo vaccinale, comunque scorporato e scollegato la questione dell'adempimento rispetto all'obbligo vaccinale per i bambini dalla esclusione scolastica, cosa che chiaramente ha reso la vicenda delle vaccinazioni ulteriormente complessa, esasperando non poco le relazioni dei genitori, delle comunità scolastiche e anche con ricadute direi significative sulla vita e sulla psiche, la vita relazionale dei bambini appunto coinvolti in questa scelta, che ripetiamo una scelta comunque che ha aperto una discussione profonda, anche se su questa si è tentato di calare una mannaia fatta anche di censura e di radiazione dall'albo dei medici, ma comunque intorno alla questione dell'obbligatorietà vaccinale si è aperta una discussione anche profonda e, come ho detto, lacerante rispetto e all'interno delle comunità scientifiche, di ambienti medici e di molti operatori della salute. Comunque, senza occupare ulteriore spazio, chiediamo a Chiara cosa sta succedendo nelle scuole fiorentine, qual è il suo rapporto con queste famiglie, che prospettive ci sono e come sta andando avanti la battaglia silenziosa ma caparbia di questi genitori che non si rassegnano di fronte a quest'obbligo. A te, Chiara. Cercherò di rispondere alle sue domande in maniera abbastanza sintetica. Non è appunto una novità che col famoso decreto Lorenzin, il decreto legge 73 del 2017, che poi è stato convertito direi con modifiche anche importanti nella legge 119 del 2017, sono state introdotte 10 vaccinazioni obbligatorie e si è prevista l'applicazione per i genitori dei minori inadempienti di sanzioni amministrative dai 100 ai 500 euro, nonché il divieto di frequentare nidi e materne, quindi un divieto che va a colpire soltanto la fascia 0-6, in mancanza quantomeno di una formale richiesta di vaccinazione. La legge infatti prevede che costituisce documentazione idonea all'accesso alla scuola sia appunto l'adempimento degli obblighi vaccinali e quindi la consegna del libretto delle vaccinazioni o di un'autocertificazione in base all'ultima modifica normativa introdotta dal decreto mille proroghe, con il quale appunto si autocertificano le vaccinazioni fatte, oppure in alternativa una richiesta di esonero, omissione o differimento, o la formale richiesta di vaccinazione inoltrata alla ASL territorialmente competente. Le circolari attuative, che sono intervenute sia diciamo lo scorso anno che nel corso, diciamo, relativamente allo scorso anno scolastico, sia nel corso del corrente anno scolastico, direi che sono intervenute a fiumi, perché la legge non è diciamo scritta in maniera sufficientemente chiara ed esaustiva, per cui sono state necessari diversi interventi. Tornando quindi al discorso principale, tutte queste circolari hanno poi chiarito che cosa significa la formale richiesta di vaccinazione, e significa appunto una richiesta di appunto prenotazione della vaccinazione, che può essere fatta tramite mail, posta ordinaria, posta raccomandata o addirittura telefonicamente, purché diciamo ci sia un riscontro scritto di questa telefonata. E si parla praticamente dei famosi appuntamenti tramite CUP, cioè il servizio di centralino sanitario metropolitano, per cui fondamentalmente si telefona a un numero verde, si prenota un appuntamento e poi si riceve sulla mail la conferma della prenotazione dell'appuntamento fatta. Ora, quest'anno si è registrato un vero e proprio accanimento della maggior parte dei dirigenti scolastici sulle famiglie che avevano comunque documentazione idonea all'accesso. Difatti, mentre l'anno scorso, a parità di norma e a parità di situazioni, non c'è stato nessun problema e i genitori hanno tranquillamente consegnato indifferentemente la prenotazione di un appuntamento piuttosto che la copia di una raccomandata inviata all'ASL con cui si richiedeva questo appuntamento, quest'anno la stragrande maggioranza dei dirigenti scolastici sono categoricamente rifiutati di accettare la raccomandata e hanno tutti preteso che i genitori avessero preso un appuntamento. Quindi diciamo hanno adottato un'interpretazione unica delle tipologie invece di documentazione che erano idonee all'accesso. Può sembrare una cosa da poco, ma non lo è, perché il genitore che comunque fa richiesta di appuntamento tramite raccomandata, oltre che chiedere la fissazione dell'appuntamento per la vaccinazione, chiede anche un previo colloquio informativo che è per lui necessario per acquisire, diciamo, tutti gli elementi utili per una scelta consapevole ed informata in materia di vaccinazione. Si sta parlando di genitori che sono inadempienti perché comunque hanno notevoli dubbi e perplessità sulla pratica vaccinale, e di genitori che sono inadempienti perché hanno magari sperimentato sul proprio figlio o hanno visto accadere su familiari o figli di amici o addirittura su loro stessi reazioni avverse alla vaccinazione, magari non sempre gravi, no? Però comunque che in forza di questo hanno delle perplessità e hanno necessità di chiarire alcuni punti con l'ASL e soprattutto di fare una corretta anamnesi familiare e personale che consenta di valutare ad esempio se sono somministrabili tutte le vaccinazioni, se devono essere somministrate in sede protetta ad esempio, quindi all'interno di una struttura ospedaliera, e vari altri casi. Per cui in realtà queste raccomandate che i genitori facevano all'ASL avevano lo scopo di chiedere sia un appuntamento per la vaccinazione sia preliminarmente un colloquio informativo. La maggior parte dei dirigenti scolastici si sono impuntati nel non ritenere valida questa documentazione, nonostante fosse, appunto, ripeto, documentazione perfettamente idonea a norma di legge, e hanno fatto dei veri e propri provvedimenti di sospensione senza consentire, diciamo, al genitore di far partire l'anno scolastico al proprio bambino se non avessero preso quantomeno un appuntamento, il che voleva dire fondamentalmente mettere i genitori nella condizione di non poter avere poi, o di rischiare di non poter avere preventivamente, questo colloquio informativo. Quindi detto questo, ci sono stati poi anche dei casi molto più gravi di dirigenti scolastici che addirittura per i quali non è andato bene nemmeno l'appuntamento prenotato, ma che addirittura volevano la prova dell'avvio dell'iter vaccinale, quindi della vaccinazione già somministrata, tanto che genitori che paradossalmente avevano fissato tramite CUP un appuntamento appuntamento, il primo libero d'altra parte, per ottobre si sono visti sospendere la frequenza fino ad ottobre, cioè il giorno in cui poi sarebbero dovuti, i bambini sarebbero dovuti rientrare a scuola in quanto vaccinati, no? Quindi ecco, anche questo ovviamente è un'interpretazione contraria alla norma di legge, perché la norma di legge sostiene che basta la formale richiesta di vaccinazione e quindi non la vaccinazione da già avviata. Quindi si sono concretizzati dei veri e propri abusi, per non parlare poi delle gravissime lesioni in materia di trattamento dei dati personali e quindi in materia di privacy, come appunto è facilmente intuibile, lo stato vaccinale di un minore costituisce un dato sensibile e come tale deve essere, diciamo, protetto e tutelato secondo la normativa in vigore, che è stata tra l'altro recentemente rivista con l'approvazione del regolamento europeo in materia appunto di privacy. È accaduto, e questo è accaduto sia nelle scuole, nei nidi e nelle materne, e sia anche a maggior ragione paradossalmente alle medie e alle superiori, che insegnanti, quindi soggetti non autorizzati al trattamento dei dati personali, abbiano consegnato davanti a tutta la classe con appello nominativo le autocertificazioni da compilare per indicare lo stato vaccinale dei minori che erano stati segnalati dall'ASL come non in regola, così come è capitato che venissero, diciamo, inseriti dei fogliettini nel diario dei bambini, leggibili ovviamente da parte di tutti, così come è capitato che venissero appunto consegnate buste con il nome dalle bidelle, facendo espresso riferimento al fatto che nelle buste era contenuta l'autocertificazione da compilare in quanto il bambino risultava non vaccinato, e che più ne ha più ne metta. Quindi c'è stata veramente, oltre che un'interpretazione molto rigida del dettato legislativo, anche veramente una violazione insomma abbastanza seria e importante delle norme in materia di trattamento dei dati personali. Devo dire che in tutto ciò ci siamo limitati a fare qualche diffida, in alcuni casi più seri a fare una segnalazione al garante, però in ogni caso, diciamo, ciò che premeva fondamentalmente a queste famiglie era semplicemente la possibilità di consentire ai loro figli di poter accedere a scuola, per cui purtroppo, sia pur diciamo ingiustificatamente, perché ripeto la legge dice altro, la maggior parte delle famiglie si è piegata e ha preso un appuntamento nonostante appunto avesse la necessità di un previo colloquio informativo, e ora su mia indicazione ha comunque sollecitato in ogni caso un colloquio, e stiamo aspettando che vengano convocati. All'esito di questo colloquio poi i genitori ovviamente decideranno se somministrare o meno le vaccinazioni. Ricordiamoci che la somministrazione della vaccinazione, come tutti i trattamenti sanitari, è sottoposta all'esercizio da parte delle famiglie del consenso informato, ed è quindi indispensabile che le famiglie vengano messe al corrente di tutte, diciamo, le controindicazioni alle vaccinazioni, ma anche appunto dei benefici della pratica vaccinale, dei rischi e della reale utilità al fine di esercitare questo consenso informato. E con questo ringraziamo Chiara Mancini per il suo intervento, sicuramente delucidante su tante di queste vicende. Nel mentre, in qualche modo la teniamo con noi come una carta da giocare più avanti, per la sua disponibilità e soprattutto per la sua competenza nel darci, magari più avanti, come ho detto, qualche delucidazione in più e qualche chiarimento su ciò che sta bollendo in pentola da parte del governo, o comunque più in generale delle forze politiche, che comunque in questi mesi e lungo questi anni ne hanno dette e scritte e propagandate di più, di chi più ne ha chi più ne metta, facendo in qualche modo anche preoccupare, aumentare il livello di preoccupazione e ansia che genitori, ma più in generale anche il mondo degli adulti, ha nei confronti delle vaccinazioni, proprio perché si sono sentite voci, vociferazioni, chiacchiere, discussioni più o meno serie, più o meno attendibili, sul fatto che dopo la forte battaglia che si sta dando all'interno delle scuole e per imporre, come abbiamo visto, d'imperio e senza farsi mancare nulla, anche in termini di veri e propri abusi, come Chiara ci ha raccontato per quanto riguarda, per esempio, il trattamento dei dati personali e le violazioni della privacy, ma nello stesso tempo anche andando a creare delle contraddizioni non da poco tra l'obbligo vaccinale, l'esclusione scolastica e per esempio il dettato costituzionale in materia di diritto allo studio. Quindi insomma ne stiamo vedendo davvero delle belle, la battaglia è tutt'altro che finita e il rischio serio è che una volta superata questa trincea che è stata costituita da piccoli, dai piccoli tra gli 0 e 6 anni e dalle rispettive famiglie, l'imposizione dell'obbligo vaccinale possa essere estesa a tutti gli adulti. Si sta parlando di estenderla agli operatori della scuola, con questo intendendo dal personale amministrativo a chi semplicemente entra anche solo per prestazioni temporanee nei locali delle scuole, o si sta parlando anche di estenderlo a tutti gli adulti. Nello stesso tempo, nel mentre si potrebbe allargare lo spettro di coloro che vengono, a cui vengono imposti i vaccini, si potrebbe tranquillamente anche alzare il numero di vaccini richiesti e rendendo appunto estendibile a dismisura la pratica vaccinale. Questo è quello di cui si sta parlando e cose sulle quali potremmo tornare anche grazie alle competenze e alla disponibilità che ci ha mostrato Chiara, che continuiamo a ringraziare. Come ho detto, o meglio, come sapete, la nostra trasmissione prende in qualche modo in analisi e come principale obiettivo e come principale spunto di lettura della realtà quello che emerge nella cronaca locale e delle vicende legate alle vaccinazioni e alla battaglia delle famiglie di cui abbiamo parlato con Chiara, avevamo preso uno spunto, l'avevamo tratto da un paio di articoli che sono comparsi in questo mese di settembre d'inizio scuola nelle cronache locali o perlomeno in quei quotidiani che ancora mantengono un'attenzione alle vicende del locale e quindi sono quelli dai quali ricaviamo le nostre cronache. Mi sto riferendo per lo più alla Nazione, alla Repubblica e al Corriere Fiorentino, che in questo avvio di scuola avevano dedicato alcuni articoli appunto a quello che stava succedendo nelle scuole rispetto all'imposizione dell'obbligo vaccinale. Quello che succedeva ce lo commentava in un articolo davvero pesante, perlomeno rispetto a quello che abbiamo sentito e che ora, dopo l'intervento di Chiara, leggeremo in alcune parti che ritengo essere salienti e che ci appariranno in tutta la loro crudezza e crudeltà. Era un articolo del 9 di settembre della Repubblica che diceva: caos vaccini, preside assediato, ormai mi sento un burocrate. Vi risparmierò i nomi degli istituti e i nomi del preside e degli insegnanti coinvolti, che invece nell'articolo sono ben citati, ma come capite il clima di caccia alle streghe che si è sviluppato intorno a questa questione ci impone una certa riservatezza e una certa scaltrezza. Tanto non sono appunto in questo senso diciamo dati o elementi essenziali, perché più importante è il linguaggio utilizzato, sul quale vorrei soffermarmi insieme a voi e del quale diamo appunto un primo assaggio proprio nel titolo. Il preside è assediato. Per questa metafora, questo linguaggio del tutto ricavato dalla terminologia militare, dà subito un assaggio di quello che è il tono con cui si commenta quello che sta succedendo nelle scuole. Il tot, l'X preside, il signor X, controlla le autocertificazioni delle famiglie, ma non riesce a fronteggiare gli irriducibili. Ecco la definizione dei genitori che, come Chiara giustamente ci teneva a sottolineare, si sono posti e continuano a porsi dei dubbi sulla pratica vaccinale e che continuano a rinviare lo svolgimento e l'accettazione pedissequa del piano vaccinale proposto / imposto dal governo attraverso il decreto Lorenzin, anche perché dalle ASL non arrivano delucidazioni, ma continuano ad arrivare censure e continuano ad arrivare dei messaggi che hanno tutto il sapore dell'intimidazione e del ricatto piuttosto che quello dell'assunzione di responsabilità rispetto a quello che potrebbe accadere dopo e durante la pratica vaccinale e quindi questo è un po' il clima, ma di questo chiaramente, come sappiamo, non si parla. Abbiamo dovuto andarsi a abbiamo dovuto cercarci dei pareri fuori dal coro e lo abbiamo fatto con soddisfazione, ma il tono giornalistico è questo: i genitori sono degli irriducibili da fronteggiare e il preside si trova sotto assedio. E si continua, assediato dai Novax, categoria quella di Novax, del tutto giornalistica, sulla quale un po' ho già detto nei mesi scorsi, chi vuole se lo va a ricercare o a risentire se gli interessa la mia voce, ma molto più facilmente, insomma, si possono compiere delle ricerche in rete. È evidentemente una categoria del tutto giornalistica e anche ideologica, perché chi, come Chiara ci ha spiegato, insomma, in più di un intervento, in più di un passaggio della sua, diciamo, della sua intervista telefonica, chi si sta ponendo contro la pratica vaccinale non necessariamente è contrario ai vaccini. Si discute della opportunità o possibilità di farli tutti nella tempistica realizzata, si discute della possibilità di farne alcuni e non tutti, quindi le motivazioni per le quali le famiglie fanno scelte diverse rispetto alla pratica vaccinale imposta in un pacchetto chiuso che o si accetta tutto o se ne è fuori, non necessariamente sono contrarie ai vaccini. Anzi, diciamo che per la maggior parte dei casi assistiamo a famiglie e a genitori che si preoccupano di procedere a vaccinazioni, però con tempistiche e modalità diverse da quelle imposte. Questo non li rende automaticamente Novax, come chi usa la bicicletta piuttosto che la tramvia non è un no tram, o chi non fuma rispetto a chi fuma è un no smoking. Quindi se ne potrebbero inventare all'infinito, e capite che tutto questo nasce solo ed esclusivamente di riflesso a questa imposizione, e quindi è una categoria ideologica e tendente a screditare, schernire e screditare e schernire, che possono considerarsi, anche laddove si procede poi alla punizione e alla repressione di questa forma di disobbedienza civile, anche i prodromi della criminalizzazione, perché poi i genitori e queste famiglie, non dimentichiamoci che nel caso dei bambini che devono accedere ai nidi o alle materne, i bambini sono esclusi, ma per tutti gli altri che faranno o vorrebbero fare scelte diverse in altri gradi d'età, ma fino sotto i 18 anni, sono sottoposti a multe. Quindi la categoria Novax è uno dei tanti strumenti, una delle tante armi della propaganda ideologica con cui si costruisce un abitino intorno a un avversario, in questo caso le famiglie che stanno facendo scelte diverse sulla pratica vaccinale per i propri figli, utile poi a costruire il nemico interno e a favorire la sua anche criminalizzazione laddove è il caso di farlo. L'articolo prosegue dicendo: il preside di questi istituti comprensivi di Firenze da giorni è tempestato di telefonate, email e lettere, spedite o consegnate a mano da un gruppo di genitori irriducibili, ancora una volta, che proprio non ne vogliono sapere di vaccinare i propri figli. E anche qui, proprio non ne vogliono sapere, insomma, questa un'altra dicitura che credo sia abbastanza indicativa del clima di odio e di scherno che viene giocato su questi genitori, le cui scelte e le motivazioni che gli stanno alla base non vengono minimamente prese in considerazione, ma vengono trattate alla stregua di pazzia, di follia o di ciarlataneria antiscientifica, perché di fatto qui si sposa senza neanche porsi il problema la scienza padrona, che ha deciso che i vaccini sono questi e non si discute. Si va avanti, si tratta di documenti che però per me, qui sta parlando della risposta di alcuni genitori rispetto alle richieste della scuola, si tratta di documenti che però per me non hanno alcun valore, ma rappresentano un modo fantasioso per provare a eludere la norma. Ecco ancora che torna l'idea dei genitori furbini che vogliono vivere in barba della legge. Ecco, questa è l'idea. Come ci ha spiegato Chiara, invece, chi si sta muovendo spesso e volentieri in barba della stessa legge, delle stesse leggi dello Stato, sono proprio le scuole e proprio molti dirigenti scolastici che hanno fatto più di un tipo di violazione. Il preside ha provato a spiegare ai genitori che serve una presa di responsabilità precisa. Ecco, qui si assume un tono mesto. Il preside ha provato a spiegare, perché poverino il preside in modo socratico e platonico cerca di far arrivare alla verità questi genitori irriducibili che lo assediano di telefonate utilizzano escamotage fantasiosi per eludere la norma, mentre lui ha provato a spiegare che serve una presa di responsabilità precisa. E invece no, perché ho assistito a scene surreali. Ci sono genitori piombati nel mio ufficio per dirmi che faccio un abuso di potere e che loro non sono tenuti a fornire a me i dati sanitari dei figli. Pensa un po' a te. Come ci ha spiegato Chiara, ci sono genitori che vanno a dirgli che le cose stanno veramente così. La cosa più sconfortante è che siamo lasciati soli dallo Stato. Nessuno ci ha dato indicazioni precise e anzi ci stanno trasformando in burocrati e passacarte, mentre il nostro ruolo dovrebbe essere quello di educatori. Ecco, ancora qui si fa un po' mesta, c'è la lamentela perché si lamenta il preside che è stato lasciato solo dallo Stato. In realtà il preside, il suo problema non deriva dal fatto che lo Stato lo ha lasciato solo, il suo problema deriva dal fatto che lo Stato, attraverso un decreto come quello Lorenzin, ha utilizzato le scuole, che altro dovrebbero essere e la cui missione altra dovrebbe essere, in uno strumento di ricatto enorme nei confronti dei genitori. Ecco, questo non è quindi il problema, non credo, signor preside, che sia che lo Stato l'ha lasciata sola, a meno che non si voglia intendere il fatto che lo Stato poteva tranquillamente utilizzare le scuole come strumento di ricatto per far vaccinare i bambini, ma a quel punto aveva anche il dovere di occuparsene aprendo, non so, degli uffici preposti, un tipo di polizia vaccinale che avrebbe dovuto fare il lavoro di intimidazione e minaccia nei confronti delle famiglie. E forse anche, mettiamoci anche che a quelli che si ribellano con toni eccessivamente sopra le righe si potrebbe anche far uso del taser. Ovviamente sto lanciando delle provocazioni, ma provocazioni che, come abbiamo visto intrecciando le notizie di cronaca, sono sempre meno peregrine. Fino ad oggi nessuno di questi bambini è stato cacciato da scuola, ci tiene a specificare il preside, ma il preside anche avverte: né io né le maestre né i custodi possiamo fare i buttafuori. Alla fine della settimana controllerò se le famiglie degli 8 bambini hanno comunque portato i figli a scuola. Se è così, dovrò fare un esposto in procura, segnalare i nomi e chiedere l'eventuale intervento dei carabinieri. Quindi ci teniamo a dire dalla scuola che non abbiamo buttato fuori i bambini, ma ci teniamo anche a dire che se non lo facciamo noi, lo faranno i carabinieri per noi. È una questione, e qui si tocca l'apice del ragionamento, di rispetto anche per gli altri bambini, ed è triste vedere che alcuni genitori arrivino ad agire in modo tanto egoistico. Ecco che torna per l'ennesima volta lo schema di ragionamento e l'abitino che è stato cucito addosso alle famiglie che si sono in qualche modo ribellate e hanno portato avanti con caparbietà, come dicevamo, le loro ragioni di fronte allo Stato e al decreto Lorenzin, l'idea che quella di non vaccinare i bambini sia una scelta egoistica. E questo è forse l'atto d'accusa più forte e indubbiamente uno degli elementi che con più determinazione sta cambiando il rapporto all'interno delle comunità scolastiche, all'interno del rapporto tra genitore e genitori. Indubbiamente far passare i genitori che non vaccinano, o che, ripeto, non è vero neanche che non vaccinano, ma che vorrebbero vaccinare in modo diverso per tempi e modalità i propri figli, ha posto proprio sia i bambini che i genitori in una condizione di vera e propria discriminazione che ci sembra particolarmente grave e di cui la responsabilità è senza ombra di dubbio da ricacciare nei confronti dell'autoritarismo medico e della sovrapposizione pericolosissima che abbiamo visto in questi mesi, in questi ultimi anni, che potrebbe addirittura crescere, tra interessi delle industrie farmaceutiche e medicine. Quindi diciamo, questo è il tono, questo articolo mi sembrava particolarmente significativo di tutta la vicenda di cui abbiamo parlato. Ci riserviamo, come ho già detto, la possibilità di parlarne ancora in futuro. Chiudiamo su questa cosa, mandiamo un pezzo musicale dedicato a bambini che sono e saranno la forza del nostro futuro, che vorremmo molto molto molto diverso da quello che è il nostro presente. A tra poco in voce. Thank you.

alle due opposizioni popolari che si stanno sviluppando in questi anni nell'area metropolitana fiorentina contro la costruzione dell'inceneritore di Case Passerini e contro la trasformazione dell'aeroporto di Peretola in grande aeroporto intercontinentale. Proprio su questo diamo un'occhiata a volo d'uccello ad alcuni articoli di giornale che sono usciti in questa settimana. Lo prendiamo dal Corriere Fiorentino del 3 ottobre, aeroporti, ogni giorno un'ipotesi, tra parentesi, per congelare tutto fino al 2019. Tra Lega e Movimento 5 Stelle un rimpallo di proposte su Peretola e Pisa, rinviando scelte ed evitando scontri. L'articolo è molto lungo, non lo leggerò tutto per più di una ragione, proverò a farvi un riassunto, diciamo, orale, un po' a memoria e a memoria e un po' anche a intuito, se vogliamo dire così, di quello che stiamo seguendo da tempo e che torna nelle nostre cronache con una certa circolarità. D'altronde non è solo, credo che i nostri ascoltatori abbiano capito perfettamente, che non è solo una fissa di me che conduco queste cronache, queste stampe rassegnate, ma è assolutamente un aspetto rilevante di quello che sta accadendo nell'area metropolitana fiorentina, una fortissima richiesta da parte dei poteri forti del nostro territorio rispetto allo sviluppo dell'aeroporto che, come sappiamo e abbiamo detto più volte, ma credo sia sempre doveroso ricordare, per le dimensioni che assume sia in termini di metrature cubiche, di volumi e di quello che sarebbe l'impatto ambientale, sociale e forse addirittura antropologico nella trasformazione della città, di quello che è annesso e connesso a questa trasformazione. Aeroporto che nel disegno renziano rappresentato ancora in modo molto forte dal Partito Democratico Fiorentino e quindi dall'opzione Dario Nardella e supportato dai poteri forti, quindi Confindustria, Confcommercio, Camera di Commercio, quindi queste associazioni di categoria che hanno trovato in questi anni più di un momento di convergenza intorno a queste tematiche, lo sviluppo dell'aeroporto non è solo aeroporto, ma è, come ho detto tante volte, la prima tessera di un puzzle senza la quale non si muovono le altre tessere, che sarebbero lo sviluppo del edilizio e urbano di quella che è definita l'area Unipol di Castello, area di Castello o ex area fondiaria, perché così è più nota agli abitanti di Firenze, quella che si estende, per capirsi, tra l'attuale pista di Peretola e il viale 11 agosto, tutta quella porzione di terreni che sarebbe coinvolta nella costruzione della nuova Mercafir, la quale spostata dall'attuale sede del mercato ortofrutticolo di Novoli lascerebbe uno spazio vuoto nel quale sempre l'amministrazione desidera e vorrebbe piazzare la costruzione della cittadella viola. Insieme a questa ci sono poi tutta un'altra serie di annessi, ovviamente non potrebbero mancare parcheggi a raso e sotterranei, non mancano altri edifici direzionali e commerciali, non mancano altre strutture ricettivo alberghiere, tra queste anche residence e ostelli per studenti, ma chiaramente di lusso. Quindi una trasformazione veramente imponente che ci ha fatto parlare più volte dell'ipotesi di una Firenze 2 per metrature cubiche e per metri quadri di cementificazione possibile. Non è una dicitura in nessun modo tirata per i capelli, e quindi capirete quanto importante sia dal nostro punto di vista parlarne per in qualche modo dare informazioni e scongiurare la possibilità che una simile trasformazione possa davvero avvenire, perché comprometterebbe in modo irreversibile gli equilibri già molto delicati di quella che è la piana, sia da un punto di vista idrogeologico, perché una cementificazione di questa portata richiederebbe compensazioni idriche che arriverebbero a Signa e ben oltre, come sappiamo e come abbiamo anche visto nelle lamentele fatte dal sindaco di Signa, Cristianini, se non vado sbagliando il nome che ho citato a memoria, ma mi pare sia proprio lui, che si lamentava poche settimane fa di aver scoperto che nelle compensazioni per l'aeroporto ci sarebbe un fortissimo impegno da parte di Signa, che dovrebbe appunto andare a condizionare eventuali altre proposte di costruzione o di sviluppo, perché nei terreni di Signa Insigne dovrebbe andare diciamo a scolmare l'acqua che non verrebbe più assorbita dai terreni che, impermeabilizzati per l'aeroporto e non solo, dovrebbe andare ad essere assorbita dai terreni molto più in là. Quindi la trasformazione di questa porzione di terreni, stiamo parlando, come ho detto, più o meno si va dal viale 11 agosto fino al casello autostradale di Firenze Nord, andando in, diciamo, da est a ovest rispetto alla Rosa dei Venti. È una trasformazione che va a condizionare in modo fortissimo tutta l'area metropolitana fiorentina e la piana Firenze-Prato-Pistoia. Proprio per questo ne parliamo con continuità. E in questa settimana, appunto, perché ci sono diversi articoli, un perché facilmente spiegabile, perché il 12 di ottobre si va a rivedere la conferenza dei servizi a Roma, conferenza dei servizi decisoria, che è un organo non di poca importanza che mette insieme tanti enti pubblici e privati che dovrebbero diciamo accordare i suoni per discutere della fattibilità di questo progetto. La conferenza dei servizi si aggiorna rispetto al master plan aeroportuale presentato da Toscana Aeroporti ENAC. La questione, appunto, è ancora molto fumosa e farraginosa, e non mancano le esternazioni politiche che diventano spot e che veramente, in qualche modo, come ha stigmatizzato anche l'articolo, si arriva a sfiorare a volte situazioni un po' paradossali e ridicole, che sono le dichiarazioni incrociate. Quindi noi abbiamo visto in questi mesi il Movimento 5 Stelle che ha frenato sull'ipotesi dell'ampliamento dell'aeroporto di Peretola, che parla della trasformazione dell'aeroporto di Peretola attuale in un city airport, non sappiamo esattamente bene cosa voglia intendere. Si è sentito dire che, anziché fare la pista parallela all'autostrada, rispettando quello che sarebbe anche il master plan aeroportuale presentato, però anziché una pista di 2400 metri, che è quella che richiede Toscana Aeroporti ed ENAC per poter far atterrare aerei più grandi e quindi come vettore dell'ampliamento e anche dell'aumento del traffico aereo, si è parlato della possibilità di spostare questa pista ma farla più corta. Si è parlato ultimamente, si è sentito dire anche, di allungare l'attuale pista di Peretola. Si dice effettivamente un po' tutto e il contrario di tutto, e direi che per non incartarsi nelle dichiarazioni politiche e negli spot, trascuriamo e tralasciamo oltre quest'articolo per andare a guardarne un altro, sempre del Corriere Fiorentino, del giorno successivo, che è del 4 ottobre, quando Confindustria sfida per Firenze contro chi frena la crescita. È un'esigenza che Confindustria, o chi per lei, insomma, i poteri forti fiorentini, hanno posto da tempo: l'idea di frenare la crescita e contrapporsi a coloro che vogliono frenare la crescita. Qui siamo sempre ostaggio di questa categoria di crescita, dell'idea della crescita infinita, che invece secondo loro è la panacea di tutti i mali. E evidentemente, insomma, gli ultimi 70 anni ripartendo come fase di accumulazione capitalistica dal secondo dopoguerra in poi, evidentemente non gli sono ancora bastate e non li hanno minimamente convinti che neanche il mutamento climatico, la fine delle fonti convenzionali di approvvigionamento delle fonti fossili, che la saturazione delle dei terreni e dell'area rispetto agli inquinanti prodotti con un sistema di produzione industriale che si muove con l'idea della crescita infinita, non gli hanno evidentemente fatto cambiare idea, perché pecunia non olet, e chiaramente questi soggetti accumulano e non possono farne a meno. Il titoletto, o meglio il sottotitolo, dice: domani l'assemblea di Via Valfonda con Boccia ed Eurnekian, l'incognita del governo. Insostenibilità. Fin dal titolo scelto, l'assemblea degli industriali fiorentini che si terrà domani al Teatro del Maggio promette scintille. Il presidente Salvadori farà una relazione molto più politica del solito, mettendo in chiaro le richieste e le proposte delle aziende per eliminare che cosa? I vincoli alla crescita, alle infrastrutture e al benessere, cioè le tante catene che frenano la crescita. Ecco che, come abbiamo visto anche in una delle ultime cronache locali e l'abbiamo già commentato, Confindustria, che ha investito in questi anni senza ombra di dubbio in un cavallo che si chiamava Matteo Renzi e in un altro cavallo un po' più piccolo sul territorio che si chiamava Dario Nardella, comincia a dire: beh, a noi evidentemente non siete stati abbastanza bravi fino a qui nel rappresentare i nostri interessi, quindi noi ci teniamo liberi di investire su eventuali altri cavalli e ci chiudiamo un po' nella nostra dimensione e nell'accordare i nostri suoni e dire quali sono le nostre priorità, che poi presenteremo in un manifesto delle imprese e delle categorie economiche che sarà presentato a tutti i partiti. Scusate, sono ancora un po' costipato dall'instabilità climatica che stiamo subendo, quella che sembrano appunto non vedere i nostri imprenditori come segnali inequivocabili di una situazione che va assolutamente cambiata, ma non nel senso che desidererebbero loro. Quindi si tengono le mani libere di investire su altri cavalli e presenteranno e lavorano a presentare, a scrivere, a costruire questo manifesto delle imprese. Ne hanno fatti e ne stanno facendo uno dietro l'altro in questi mesi, alcuni tipi di alleanze le ha proposte la Confcommercio, altre la Camera di Commercio, abbiamo visto l'estate scorsa, o meglio la primavera scorsa, il patto per Firenze. Sono sempre in sostanza le solite tematiche: liberalizzazione del mercato del lavoro, sicurezza e politiche antidegrado viste come garanzie per un buon e oleato funzionamento della fabbrica del turismo all'interno della cerchia delle mura del centro storico, e poi sono la ripartenza con infrastrutture e grandi opere. Questo è il loro programma. Mi sposto per andare in dirittura d'arrivo della nostra trasmissione con un altro articolo che mi è sembrato interessante e che poi in un modo o nell'altro non va a cadere neanche tanto lontano da quello di cui stavamo già parlando, ed è la pubblicità, sì, chiamiamola proprio pubblicità perché di questo si tratta, della fiera Didacta che si svolge alla Fortezza d'Abbasso. Non so chi la conosce, ma ora leggeremo qualcosa e lo scopriremo insieme. Di chi parla di Didacta? Leonardo Bassilini. Didacta raddoppia per mostrare quale sarà il futuro della scuola. Didacta, per chi non lo conoscesse, è una mostra, credo anche si possa a tutti gli effetti definire mostra mercato, nel senso che chi poi la visita, se vuole, può prendere accordi e contatti con i venditori e le aziende che sono presenti alla mostra, che parla di sussidi didattici e attrezzature per la scuola. Articoletto curioso di Valeria Strambi, che in qualche modo è anche una sorta di intervista, ripeto, a Bassilichi, che con la scuola non ha niente a che fare se non essere il presidente di Firenze Fiera, e quindi evidentemente a parlare di scuola, anche se è ridotta declinata o vista o guardata soprattutto dal punto di vista delle attrezzature e delle e dei sussidi, a chi tocca se non al presidente di Firenze Fiera. Alternanza scuola-lavoro, smartphone in classe, filosofia fin dalle elementari e lezioni a ritmo di musica. Firenze torna ad essere il punto di riferimento per la didattica del futuro. Dal 18 al 20 ottobre alla Fortezza d'Abbasso va in scena Didacta, la manifestazione che è nata in Germania 50 anni fa e approda per la prima volta in Italia lo scorso anno. Leonardo Bassilichi, per l'appunto presidente di Firenze Fiera, parla di numeri già raddoppiati per questa seconda edizione, perché chiaramente l'obiettivo di una kermesse sulla scuola è il numero di visitatori. Presidente, a chi si rivolge Didacta e a che punto sono le iscrizioni? A chiunque sia curioso di sapere in che direzione sta andando la scuola, insegnanti, educatori, professionisti, ma anche associazioni, enti e imprenditori che guidano le aziende del settore potranno incontrarsi e innescare un dibattito sul mondo dell'istruzione. Ecco che a dibattere del mondo dell'istruzione bisognerebbe andare, secondo lui, in una mostra mercato che è rivolta per lo più a insegnanti, educatori, professionisti, ma anche associazioni, enti e imprenditori. Qui ovviamente mancano in tutto e per tutto gli studenti e volendo anche i genitori, cioè poi tutto sommato la gente o i cittadini, gli abitanti, i lavoratori, le classi subalterne, cioè coloro che all'interno della scuola cercano o potrebbero cercare una emancipazione personale, un'emancipazione collettiva, la costruzione di una nuova e migliore società, ma no, ma di tutto questo è meglio non starne a discutere in questa sede. Perché ancora a Firenze? Didatta resterà qui almeno per altri 5 anni, fino al 2022 compreso, lo prevede l'accordo firmato ad Hannover fra Firenze Fiera e il consorzio fatto dalle oltre 260 aziende tedesche del mondo della scuola, che organizza in Germania la manifestazione. Ovviamente siamo felicissimi e credo che sia nel DNA della nostra città. Cosa sarebbe nel DNA di Firenze organizzare fiere che riguardano la scuola? Mi sembra un discorso un po' così, proprio uno dei tanti spot, una delle tante sparate. Chi altro ci sarà a Didatta? Io leggo in qua e là, ho selezionato delle parti che mi sembravano significative. Chi altro ci sarà a Didatta? Le richieste di partecipazione sono arrivate dalle aziende più diverse. Ovviamente si parla sempre di aziende. Molto presente la tecnologia, ma anche chi si occupa di arredi scolastici e chi terrà seminari sull'educazione riservata ai bambini dagli 0 a 6 anni o incontri dedicati agli istituti alberghieri. Ci saranno tante personalità del mondo della scuola e della cultura e naturalmente abbiamo invitato il ministro di istruzione Marco Bussetti. È chiaro, no? Ci sono le aziende e poi, come potevano mancare, le manfrine e i salamelecchi alla politica, perché prima c'era la Fedeli, ora c'è Marco Bussetti e quindi va invitato a Didatta, anche perché ci sono delle visioni di scuola che non sempre vanno d'accordo. E quindi che succede? Il nuovo titolare del MIUR, cioè del Ministero dell'Università e della Ricerca, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, MIUR, si è già espresso a proposito di alcuni temi caldi del mondo della scuola. Per esempio, ha annunciato di voler ridurre le ore di alternanza scuola-lavoro e che l'uso degli smartphone in classe non sembra convincerlo, a differenza di quanto sostenuto dalla ex ministra Valeria Fedeli, che aveva fatto redigere delle vere e proprie linee guida. Mi auguro, questo risponde Bassilichi, mi auguro che il ministro partecipi e che questa sia l'occasione per chiarire la sua posizione. L'alternanza scuola-lavoro, su cui punta molto Didatta, è uno strumento che, pur con le difficoltà iniziali, stava mettendo sempre più in relazione scuole e imprese. Ecco che, in fondo, dentro una kermesse, dentro una mostra mercato, c'è anche il momento della politica e della discussione, perché è lì che forse è veramente il caso di dirlo e di prenderlo seriamente in considerazione, è il luogo dove si elaborano i programmi politici, dove si elabora l'idea di società e di scuola, altro che ministeri, altro che cittadinanza, altro che voto, altro che forme di rappresentanza, altro che partecipazione, men che mai democrazia diretta, nonostante le tante dichiarazioni che ci sono state. E quindi, insomma, si va a discutere, perché chiaramente se i ragazzi portano gli smartphone in classe c'è un tipo di business, se non ce lo portano ce n'è un altro, se si fa l'alternanza scuola-lavoro il business va in una direzione, se l'alternanza scuola-lavoro si riduce si va in un'altra. E insomma, tra una cosa e l'altra, Leonardo Bassilichi ci ha detto che la banda che organizza Didatta sull'alternanza scuola-lavoro punta molto e molto del suo lavoro. Quindi, insomma, ci hanno già fatto capire da che parte stanno e come guardano il mondo e da che interessi si muovono. Con questo credo che dobbiamo chiudere le nostre cronache. Io vi do un salutone, un pugno chiuso, a risentirci per la prossima settimana. Ciao ciao!